Ci sono notti che lasciano il segno. Parlato della Petit Madeleine di Proust, della Recherche du Temps Perdu, insomma, è stato un bel 58 di cui sono ancora molto fiera. Ci sono notti che non si possono dimenticare. È una cosa bella, la mamma la mattina che ti fa una colazione speciale, no? E ti saluta come non ti ha mai salutato andando a scuola, no? Sono Federico Taddia e martedì 19 giugno vi aspetto dalle 21 alle 24 per passare insieme la notte prima degli esami. In collaborazione con studenti.it.